insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia da adesso fino alle 18, ma anche voi, per favore, tenetevi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci, facilissimi: l'SMS 349-238-6666, ma anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, e l'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio. È un po' lungo, quindi utilizziamo le iniziali cancelletto ISDV. Scopriamo subito insieme i temi della prima ora del sabato del villaggio. Il teatro per ragazzi, un nuovo modo, sempre più diffuso in realtà, di avvicinare i più giovani e le famiglie allo spettacolo più bello e più antico che ci sia. Le tecnologie, poi la digital radio, ne parliamo tanto in questi giorni, ma andiamo un po' agli aspetti pratici. Quanto costa? Cosa comprare? Altro argomento di tendenza, le novità di WhatsApp. L'abbiamo sentito tutti, il problema della doppia spunta. Chissà cos'è, vabbè, insomma, se lo usiamo sappiamo già cosa succede. Ma quali sono i servizi di messaggistica sui cellulari? Cioè, ci sono alternative a WhatsApp? E poi ancora le app da scaricare, il tutto con il nostro Enrico Pagliarini. Ancora nella prima ora del sabato del villaggio, il cinema, con tutti i consigli per le uscite del weekend insieme a Franco D'Assisti. E poi la TV. Chi sono i personaggi più amati del momento? Beh, lo scopriamo subito. Abbiamo scelto questa canzone ovviamente per il titolo Sweeter Than Fiction, ma anche perché l'artista Taylor Swift, con il suo nuovo album 1989, ha debuttato al numero uno negli Stati Uniti e nel Regno Unito e ha conquistato la top 5 in tutto il mondo, Italia compresa, dove Shake It Off, che è il nuovo singolo, è il disco d'oro. Ma tornando a questa Sweeter Than Fiction, più dolce della fantasia, è proprio di dolci vogliamo parlare in apertura del nostro sabato del villaggio. Il talent Bake Off Italia 2, l'ormai famosissimo boss delle torte, torte in corso, il re del cioccolato, My Cake Design, la battaglia dello zucchero, torte d'autore, mamma che torta, i dolcetti di Paola, dolci di casa, torte da record. Sono solo alcuni dei titoli che negli ultimi mesi hanno affollato digitale terrestre e reti satellitari, ma ai dolci adesso è arrivata anche la regina dell'ora di pranzo in TV. Eccoci qui, dolci dopo il TG, finalmente il torneo di pasticceria lungo tutto l'anno per aspiranti giovani chef, giovani pasticceri, con una sorta di campionato di calcio, quindi avremo un'andata e un ritorno e poi tutta la fase finale dove tra i migliori uscirà quello che è il campione o la campionessa, che si aggiudicherà 100.000 euro da spendere per la propria attività. Quindi si inizierà, magari aprirà un laboratorio di pasticceria oppure migliorerà l'attività che già ha. Buon pomeriggio ad Antonella Clerici. Ciao Marta, eccomi qui, pronta. Oh, che meraviglia, che emozione. Antonella, io ho parlato di questo boom dei pasticceri e dei dolci in TV. Per anni era solo cucina, cucina, cucina. Insomma, tu sei stata una delle prime a portare la cucina di grandissimo successo con La prova del cuoco. Adesso cosa sta succedendo? Cioè, siamo arrivati al momento del dessert? Oppure, secondo te... No, dai, secondo te come mai c'è questa passione? Ma secondo me è una cosa logica. Dopo aver, io mi ricordo, no, nel 2000, quando ho iniziato 15 anni fa a occuparmi di cucina, era una cosa stranissima. Poi dai primi, dai secondi, eccetera, era inevitabile partire, passare ai dolci, perché è una delle grandi, delle altre nostre grandi passioni. Quindi diciamo che come conclusione logica di un pasto, prima o poi si doveva arrivare al dessert. Da battuta ti dico, speriamo di non arrivare alla frutta, ma insomma ci arriveremo magari anche. Io devo dirti che quando mi hanno detto cosa volevo fare in questo piccolo spazio, dopo il TG1 Economia e prima, diciamo, dei grandi programmi del pomeriggio di Rai 1, io ho subito detto: guardate, essendo figlia della prova del cuoco, avendo finito di mangiare, io credo che l'unica cosa che potrei fare giocare per avere una logica anche, no, dal punto di vista dello spettatore, è quello di fare il dessert, cioè di bere un caffè e di mangiare un dolcetto e di rimanere quindi in linea con la mia tradizione culinaria. E così ho fatto. Mi hanno chiesto di arrivare alla doppia cifra, io ci sono arrivata, quindi il mio compito, come dire, l'ho esaurito e basta. Devo dire che per me i dolci sono, e lo dico col cuore, cioè una bella parentesi, una grande parentesi, ma non è logicamente una cosa che farò tutta la vita, è una cosa specifica che mi è stata chiesta per un periodo particolare e la faccio volentieri e quest'anno insomma la farò, ma naturalmente seguendo quella che è una moda che poi vedi, io non sono una modaiola, però evidentemente le mode mangerecce le so seguire bene. Anch'io sono abbastanza ispirata così, non so come mai, non lo so. Esatto. Come sono i pasticceri? Perché i cuochi spesso sono anche un po' star, invece i pasticceri per ora funzionano benissimo in televisione, sono carini, sono meno cattivi, sembra. Sono più dolci forse, capito? In questo senso sono più dolci, però guarda che sono severi anche loro, perché la pasticceria, a differenza della cucina, è molto matematica, è molto rigore, non puoi sbagliare le dosi, mentre se tu metti, non so, vabbè, a parte il sale e il pepe, però in generale se aggiungi o togli un ingrediente cambia poco, nei dolci può non venirti il dolce, il soufflé può mosciarsi, quindi i pasticceri sono più rigorosi in questo senso, quindi essendo più matematici e più logici si pensa che abbiano meno fantasia. Poi in realtà adesso sai, con tutte queste torte un po' particolari, cupcake, le torte moderne, anche lì il rigore è un po' andato a farsi benedire, quindi ci vuole anche un po' come dire, la passionalità, il decoro, tutte queste cose. Devo dirti che insomma in definitiva i pasticceri sono un po' come i cuochi, cioè dei cavalli pazzi. Io sono stupita, seguendo il tuo account di Twitter, perché tu retweeti tutti i tuoi fan che ti spediscono le loro creazioni. Sono bravissimi, è una cosa impressionante. Perché la gente è brava, soprattutto gli italiani, sono appassionati di cucina. Infatti io ti devo dire che Twitter è diventato un po' il mio rifugio, dove intanto io ho preso ad esempio nel mio ultimo libro moltissime ricette che mi hanno mandato i fan di Twitter, naturalmente chiedendo loro l'autorizzazione e il permesso, perché ritenevo giusto, siccome in fondo la cucina è una cosa che proprio fa parte degli italiani, che un po', così come un po' la prova del cuoco, che gli italiani facessero un po' parte del mio libro, no? La cucina di Casa Clerici, che è appena uscito, e che riguarda proprio insomma le ricette facili che mi hanno regalato anche i fan, perché la maggioranza della gente in Italia sa cucinare bene. Non è vero che non sa cucinare, un po' per tradizione di nonna, famiglia, mamma, eccetera, un po' per passione, soprattutto centro-sud Italia, troviamo delle ragazze che hanno grande passione per la cucina e anche tanti ragazzi. Gli universitari, ad esempio, che vivono da soli, dopo un po' devono fare di necessità virtù, quindi non è che possono sempre andare al ristorante e si impegnano. Poi adesso c'è una grande ricerca delle materie prime, questa attenzione al biologico, anche tante volte un po' eccessivo, no? Questa moda vegana, che se sapientemente, come dire, incanalata, può essere interessante. Poi se diventa, come tutte le cose, maniacale, sai che a me queste cose non piacciono. Però in generale aiuta così a capire quali sono gli ingredienti, a capire di più, insomma, ad avere più attenzione al prodotto e anche a quello che fa bene alla salute. A proposito di salute, sono molto contenta perché oggi hai dedicato la tua puntata della Prova del Cuoco alla campagna dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Bello, importante, importante anche perché a volte si pensa che le trasmissioni di intrattenimento ci servano a evitare di pensare, invece possono servirci ad aiutarci a pensare nel modo giusto. Assolutamente, io sono testimone dell'ARC, ho preso il testimone tanti anni fa da Sandra Mondaini e ne sono sempre stato onorato, ho sempre cercato di aiutarli come potevo, e secondo me noi l'abbiamo capito che attraverso l'alimentazione, che è una sorta di prevenzione, passa la nostra salute, quindi parlare alla prova del cuoco, come dico sempre, i messaggi più importanti passano attraverso la leggerezza, non passano mai attraverso il pontificare, perché il pontificare annoia la gente. Se tu vuoi dare un messaggio al popolo giusto, alla gente comune, devi farlo attraverso la leggerezza. Quindi se tu devi parlare di alimentazione, lo fai attraverso la leggerezza della prova del cuoco e i messaggi arrivano. E soprattutto la ricerca, questo numero attivo fino a domani, il 45503, è fondamentale, perché non è che aiutiamo un'associazione, aiutiamo noi stessi. stessi, perché alla fine se scopriremo e riusciremo a guarire questo cancro, che non è più una malattia impossibile, lo dobbiamo alla ricerca, quindi più aiutiamo loro più aiutiamo noi. Che meraviglia, grazie Antonella. Io voglio però chiederti anche un'altra cosa. La scorsa settimana, che è stata la prima settimana, la prima puntata del nostro Sabato del Villaggio, abbiamo parlato di Andrea Faustini, grande fenomeno, perché noi ci occupiamo di grandi fenomeni, lui sta sbancando X Factor inglese, però ha cominciato con te, a Ti lascio una canzone. La prima edizione di Ti lascio una canzone, che è stata l'edizione dei miei più grandi talenti, ti devo dire la verità, me lo ricordo benissimo, perché lui è sempre stato uno fuori dal coro, un fuori classe. E mi fa piacere questa cosa, perché tante volte Ti lascio una canzone viene criticata a prescindere e non si capisce che invece non è un tale, è un talent di ragazzini, ma una gara, come dire, leggera, simpatica, divertente, dove i ragazzi possono esprimere le loro potenzialità. È come il tennista che inizia a giocare a 14 anni, se deve diventare un grande campione deve iniziare a 14 anni, se deve iniziare a cantare e diventare un grande cantante è a 14 anni che deve avere il suo lustro. E quindi io difenderò alla morte questo programma, che secondo me è uno dei programmi più puliti della televisione italiana. Trovo che tutti quelli che la pensano al contrario, perché hanno degli interessi fuori dal coro, perché sono prezzolati in qualche modo, perché non è possibile che questa cosa non arrivi come arriva invece al cuore della gente. La riprova ne è, vedi con Il volo, che hanno avuto un successo internazionale, incredibile, oggi con Andrea Faustini. Vuol dire che questi ragazzi hanno un talento, e perché tenerlo imbrigliato? Perché non dar loro la possibilità di diventare famosi? Perché? Quale cattiveria vogliamo fare a questi ragazzi? È normale che loro, quando hanno anni, si divertono. Noi abbiamo bambini dagli 8 ai 16 anni, a 8 anni si divertono, lo prendono come se fosse una sorta di zecchino d'oro, a 14 anni possono davvero mostrare il loro talento e magari cambiare la loro vita, perché no? È come un calciatore che inizia nelle giovanili a tirare calcio al pallone, non capisco perché tutta questa preclusione nei confronti dei nostri bambini. Ti lascio una, è una cosa che per me è inconcepibile. Tra l'altro poi alcuni vanno a finire anche all'Eurovision, allo Junior Eurovision, li accompagni quest'anno? No, li accompagno. Ha un compagno, Vincenzo Canchiello, che ha una canzone molto carina che ha scritto per lui, appunto, Leonardo De Amicis, perché a noi piace seguire i nostri bambini. E io gli dico sempre: Vincenzo, ti devi divertire, come dico sempre ai bambini. Guarda, io quando ho iniziato a fare questo lavoro volevo fare un'esperienza nuova, volevo divertirmi e sono arrivata a essere quello che ero. Quando uno inizia pensando di fare carriera ha sbagliato tutto. Se tu questo lavoro lo fai con l'idea di dire mi piace, mi diverto, lo faccio, ci provo, tu avrai successo. Se tu lo fai con degli obiettivi che sono, oddio, la spinta di qua, la cosa di là, oddio, solo i raccomandi, no, è sbagliato, devi divertirti. Io quello che dico ai miei bambini: divertitevi, prendetela come una grande esperienza di vita, imparerete comunque delle cose nuove e crescerete, questo. Che bel messaggio per il sabato pomeriggio, perché sai, ci sono un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che sono in macchina con i ragazzi, magari tanti hanno, ultimamente tanti ragazzi hanno questi... La domenica vanno a fare sport, magari vanno nei parchi, vanno a giocare, vanno al cinema, quindi la radio è bella perché entra dappertutto. Verissimo, grazie Antonella di essere stata, grazie con noi, te, buon Marta, pomeriggio. Grazie di cuore, e buona domenica, ciao. Sono le belle. Scusate, io alle tagliatelle di Donna Pina non resisto, cioè io l'ho voluta a tutti i costi perché io adoro questa canzone, mi mette un'allegria assolutamente immotivata. Tra l'altro Antonella ha citato lo Zecchino d'Oro, questa canzone ha vinto lo Zecchino d'Oro un sacco di anni fa, mi pare nel 2003, tanti tantissimi anni fa. Lo Zecchino d'Oro torna il 25-29 novembre e lo condurrà Veronica Maia, che ieri sera è stata un po' il fenomeno della serata perché ha avuto un piccolo infortunio durante la puntata di Tale Quale Show, diciamo è stata troppo esuberante per la scollatura del vestito, che non ha contenuto tutta questa esuberanza. Vabbè, la rete ne sta parlando molto, noi alla radio non possiamo mostrarla fortunatamente, ma ci sono i vostri messaggi, stanno arrivando i vostri messaggi al 349-238-6666. Anna di Milano ci chiede: Daniele Bellasio dove è finito? No, Daniele Bellasio arriva, perché lo spazio di RadioTube è tale quale, appunto, all'anno scorso un'ora prima, dalle 17 alle 18. Daniele è in arrivo, spero, puntuale 17-18 con RadioTube come sempre. E poi un altro messaggio, ahimè non firmato, che ci ricorda alla fine degli anni 70 guardavo con mia nonna Vilma De Angelis su Tele Monte Carlo, credo sia stata una delle prime cuoche in TV, anch'io me la ricordo con grande affetto, questa Telemenù mi pare si chiamasse, mi piaceva tantissimo. E poi via Twitter al mio account @MartaCagnola c'è un uomo di poca fede il cui account è KimCorea83 che mi chiede: ma l'hashtag è ISDV minuscolo oppure maiuscolo? Dovresti essere più chiara. Vale uguale, vale lo stesso, fallo maiuscolo, minuscolo, come preferisci. Ci ritroviamo tra poco, bisogna informarci su come sta andando il traffico. Il sabato del villaggio. Mi piace molto questa sigla. La scorsa settimana, la potete recuperare nel podcast di Radio 24, abbiamo svelato il segreto dietro questa sigla, dietro chi l'ha scritta, Max Zoara, che è l'autore di tutte le sigle di Radio 24, e nella scorsa puntata ci ha raccontato come nascono le sigle di Radio 24. So che vi era piaciuto molto, ho avuto tante segnalazioni, ma ho avuto anche tante segnalazioni di temi di cui vorreste che ci occupassimo nel nostro sabato del villaggio. Uno di questi temi è il teatro, quindi non solo musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, cinema, e quindi, perché no, parliamo anche di teatro. Diceo, cosa volevo da me? Chi me manda? Adagio, con le buoni 30 euro che sono una volta alle troppe per un povero uomo. Mi creda che sia un sempio costo. Mi par piuttosto un uomo burlevole. Oh, signorina, è la sposa. Io no. Volevo dire chi sei, vuole andare a fare i fatti vostri. Con la voce sapere che sono parole mi sbrigo, assolto il servitore del mio patrone. E così la mano. Ma chi sei il vostro patrone? Ah, lei un cuore c'è che vuole venire a fare una visita. Sono voglio dei fogli di Ma sto perché chi sei? Come se giamelo? Lunga! Adesso il Federico Rasponi da Turin è il mio patrone! Che la vita disse che veniva apposta, che le da basso, che manda passate, che vuole facciare, che mi ha fatto risposto, le contento, la saver altro! A torniamo al curso! Vuoi venire qua a parlare con me? Cosa diavolo dicevo? Alla vostra verità che sono me! A mi son tarletti in bataccio! Arvo di Nariccia e sordo di noccia! Il più grande e famoso arlecchino del teatro di oggi è Ferruccio Soleri, classe 1929, un attore da Guinness perché ha indossato i panni della maschera nel Servitore di due padroni dal, spero di non sbagliarmi, 1959. Ma Ferruccio Soleri è anche uno dei grandi simboli di un teatro milanese ma amato in tutta Italia, il Piccolo Teatro di Milano, che questo pomeriggio prendiamo un po' ad esempio di come si fa teatro per i ragazzi, chiedendo qualche consiglio per le famiglie, ma perché no anche per le altre scene italiane. Buongiorno a Lanfranco Licauli. Buongiorno Lanfranco. Buongiorno Marta, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Lanfranco, la tua definizione, quella del biglietto da visita, dice direttore comunicazione e marketing, ma in realtà ho scoperto che il tuo vero interesse, la tua vera passione sono i ragazzi, cioè il teatro per i giovani, per i più piccoli. Ti sei entusiasmato tantissimo all'idea di parlare di questo argomento. Sì, no, davvero tanto. Beh sì, io ho la fortuna di lavorare in un'area molto bella del teatro, che è quella del rapporto con il pubblico, con gli spettatori, e una parte importante è quella proprio dei giovani. Noi diciamo che abbiamo quasi metà del nostro pubblico a meno di 26 anni, e di questi abbiamo tantissimi bambini, quasi 20.000 all'anno, tra i 4 e i 14 anni, che appunto o con le scuole durante la settimana o nei fine settimana invece con le famiglie affollano fortunatamente le nostre sale, ma non solo le sale, affollano anche il teatro e gli uffici, come poi magari dopo ti racconterò con grande piacere. Beh, allora, le scuole e le famiglie che portano i ragazzi a teatro, ti chiedo subito, ci sono due vie, cioè il teatro proprio per ragazzi, ma anche il teatro, lasciami dire così, normale, per tutti. Cosa bisogna fare con i ragazzi, con i bambini? Come si fa ad avvicinarli al teatro? Ma innanzitutto fagli scoprire che dietro quella magia meravigliosa che è il palcoscenico c'è proprio una vera e propria macchina teatrale. Noi con i ragazzi, appunto, nel corso di tutto quello che è il percorso, potremmo dire, educativo, scolastico, iniziamo con quelli che noi chiamiamo i benvenuti al piccolo. Questo per noi è una sorta di battesimo teatrale, dove per esempio i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, ma soprattutto accompagnati dai giovani attori diplomati dalla scuola del piccolo, diretta da Luca Ronconi, scoprono un po' quello che è dietro le quinte. Quindi veramente tu dovresti vedere gli occhi di questi ragazzi come si illuminano quando girando per il teatro vedono la attrezzeria, la sartoria, i camerini degli attori, ma anche gli uffici. Pensa che tutte le mattine, in due turni addirittura nelle mattine, girano anche per gli uffici, vedono la produzione, la comunicazione e anche la direzione. Pensa che quasi tutte le mattine il direttore del piccolo, con cui Sergio Esco, con cui lavoriamo in equipe, con la produzione, noi della comunicazione, qualsiasi cosa stiamo facendo, che sia una riunione di programmazione, di bilancio, ci fermiamo e il direttore gli spiega cosa sta facendo in quel momento. Quindi gli racconta che dietro quella magia c'è un mondo di, appunto, di lavoro, di persone, e questo è un modo sicuramente per avvicinarli, per poi portarli a vedere anche degli spettacoli. Beh, intanto io, fammi salutare il direttore Sergio Escobar, perché so che è un ascoltatore affezionatissimo di Radio 24 e noi li vogliamo molto bene. Gli spettacoli, spettacoli per ragazzi, secondo te qual è la prima cosa che possono guardare e alla quale possono appassionarsi bambini e ragazzi? Beh, noi addirittura iniziamo spesso con laboratori spettacoli proprio per bambini piccolissimi, iniziamo addirittura con bambini di 3-4 anni, quindi iniziamo con la scuola dell'infanzia. In questo caso una forma di teatro davvero accessibile e immediata, per esempio il teatro d'ombra, no? Quindi per esempio con gli amici di Teatro Giocovi di Piacenza abbiamo realizzato molti laboratori dove proprio con la semplicità di un fascio di luce, il movimento di una mano, un telo proiettato, si possono raccontare mille storie. Ma la stessa cosa potrebbe essere le marionette. Noi appunto lavoriamo da anni con la famosissima compagnia di Carlo Colle e figli, quindi anche sono piccoli passi in cui addentrarli nel mondo del teatro, per poi passare invece, come appunto giustamente anticipavi tu prima, a quelli che sono dei veri e propri spettacoli invece più strutturati, dove si raccontano appunto altre storie. Beh, l'Arlecchino stesso, prima hai fatto sentire quel passaggio meraviglioso del grande Ferruccio Solieri, che proprio dall'altro ieri ha compiuto 85 anni e strega sempre ragazzi di tutte le età. Pensa che addirittura l'Arlecchino inizia a vederlo alcune scuole dell'ultimo anno delle primarie, delle elementari, ed è poi attraverso le scuole soprattutto delle medie, le primarie, le secondarie di primo grado, è uno degli spettacoli più visti. Uno spettacolo più visto. Addirittura anni fa facemmo una sorta di indagine di mercato e scoprimo che il pubblico milanese, più del 65%, il battesimo teatrale l'ha avuto proprio con l'Arlecchino di Strehler del Piccolo Teatro. Ma se ci fosse all'ascolto qualche teatro, insomma, magari che non ha le stesse risorse, la stessa risonanza, la stessa importanza che ha il Piccolo, che è veramente una grossa istituzione, tu che consiglio daresti a un collega che vuole cominciare ad attrezzarsi per avvicinare al teatro i piccoli? Beh, sicuramente fare molta formazione, cioè preparazione non solo alla visione, ma anche proprio a quello che è la comprensione del teatro. Prima parlavamo dei benvenuti come una forma di accesso per i più piccoli, poi però sicuramente un altro, diciamo, io direi che nel teatro ragazzi i protagonisti sono tre: i ragazzi stessi, i loro insegnanti e le famiglie. Ecco, un perno fondamentale sono gli insegnanti, e noi per esempio un'attività che noi facciamo da anni, vediamo che ha un grandissimo successo, è di avere proprio i corsi di formazione per gli insegnanti, ma in maniera semplice, immediata, chiedendo aiuto ai nostri artisti, drammaturghi, attori, registi, scenografi, e non solo di spettacoli per ragazzi, ma di tutti i nostri spettacoli, gli spettacoli diretti da Ronconi, gli spettacoli appunto dell'intera stagione. Noi con questi artisti prepariamo, facciamo dei veri e propri corsi per gli insegnanti, che nei pomeriggi vengono nei nostri spazi, ascoltano i nostri artisti e si preparano innanzitutto proprio la scelta della visione dello spettacolo. Quando sono in aula preparano i loro ragazzi, ma anche per loro diventa un momento, diciamo, formativo. Quindi sicuramente la chiave della formazione rispetto a questi tre protagonisti di questa parte di pubblico è sicuramente qualcosa che aiuta ad avvicinare al mondo del teatro. Poi per accompagnarli, noi addirittura diciamo che i nostri bambini hanno dai 3 ai 90 anni, per accompagnarli in tutta quella che è la loro esperienza di vita teatrale. Beh, insomma, il teatro mantiene giovane, mantiene anche così un po' bambini dentro. Ti chiedo velocissima un'ultima cosa. Invece il teatro, tra virgolette, per i grandi, tu ci porteresti i bambini e i ragazzi molto piccoli? Si addormentano, si annoiano? Ma dipende, molte volte, ovviamente dipende dal tipo di spettacolo, dal tipo di testo, sicuramente molte volte ci sono dei genitori che vogliono portare i loro bambini e noi lo sconsigliamo quando sono davvero troppo piccoli, però noi spesso sottovalutiamo quello che invece è la curiosità dei bambini. Ci sono già ragazzi che a 11-12 anni assistono a spettacoli comunque anche serali di grandi autori, cioè Shakespeare, Pirandello, il mitico Goldoni, sono comunque autori che davvero sono capaci di parlare già ai primissimi anni di quello che è il nostro pubblico, quindi in questo non dobbiamo avere paura di preparare i ragazzi attraverso appunto anche attraverso poi le famiglie, attraverso i loro genitori e sicuramente è una bellissima esperienza quella di portarli già da giovanissimi a teatro. Grazie a Lanfranco Licauli, che appunto si occupa di comunicazione al Piccolo Teatro. Ma come avete sentito, la cosa che lo appassiona di più sono i ragazzi, il teatro per ragazzi è una cosa che a me piace molto. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. E noi salutiamo Lanfranco Licauli e il teatro con appunto questi fantastici Colla. Questa è nuova. Un gatto stivalato. Sire, mi raccomando la vostra bontà. Un gatto che parla. Meglio. E chi siete voi? Cosa vorreste? Io sono il paggio del marchese di Caravaggio. Possibile. Vedrai tanto volentieri il vostro padrone. Egli fu assalito dai ladri che lo spogliarono e lo gettarono nel fiume poco lungi di qui. Assalito, spogliato e gettato nel fiume. A presto, scudieri, accorrete in suo soccorso. Presto, a noi, andiamo. E intanto al 349-238-6666 arrivano i vostri messaggi SMS. C'è Sandro che mi prende in giro perché ho parlato di Veronica Maia, che insomma ha avuto una esuberanza eccessiva nel vestito ieri sera a Tale Quale Show, e dice la rubrica nudità delle celebrità. Beh ragazzi, però se loro si spogliano non ci posso far niente, non sono io che li faccio spogliare. Beh insomma, è una coincidenza, anche questa settimana abbiamo parlato di questo argomento. Di cosa parleremo invece nella prossima mezz'ora? Beh, di tecnologie, di digital radio, delle novità di WhatsApp e degli altri servizi di messaggistica, le app da scaricare. Faremo tutto questo con Enrico Pagliarini, ma parleremo anche di cinema, andremo un po' a sentire cosa è successo nel botteghino del fine settimana, andremo a sentire quali sono i film da non perdere nelle nuove uscite. Ovviamente lo faremo con il nostro esperto, con Franco D'Assisti, che poi più in là nel pomeriggio ritroveremo anche con La Rosa Purpurea. Tutto questo nella seconda mezz'ora della prima ora del Sabato del Villaggio, che poi ci terrà compagnia fino alle 18. Noi ci ritroviamo tra poco dopo una brevissima pausa. Il Sabato del Villaggio. Eccoci qui con la seconda parte della prima ora del Sabato del Villaggio. Vi teniamo compagnia tutti i sabati in diretta dalle 15 alle 18 con me, con Marta Cagnola, ma anche con tanti conduttori di Radio 24. L'ultima ora insieme a Daniele Bellasio, il nostro appuntamento con RadioTube. Io davanti a me 6 pagine di scaletta solo per le prime 2 ore e ne ho voltata solo una, quindi ci sono ancora molte cose da dire, ma anche voi potete tenerci compagnia con i vostri SMS al 349-238-6666, ma anche seguendoci su Twitter. Il mio account è @MartaCagnola e c'è anche l'hashtag. Siccome il Sabato del Villaggio è un po' lungo e vi occupava tutti i caratteri, tutti i 140 del tweet, abbiamo pensato all'acronimo ISDV. Cancelletto ISDV per avere il nostro hashtag del Sabato del Villaggio su Twitter. Parliamo quindi di tecnologie e è ovvio. Con chi possiamo parlare di tecnologie se non con Enrico Pagliarini, che è con noi in studio. Buongiorno Enrico. Troppo buona, ciao. Il mio esperto preferito. Ti ho preparato un'altra canzoncina per oggi. Sentiamo la canzoncina. Non è particolarmente originale, però è la più bella di tutte, secondo me, che parla di questo argomento. Rock and roll robot? Ah. Eh? Sì. È la più bella. Sì, perfetto, giusto. È la più bella. Sì. Beh, tanto l'hanno già capito i nostri ascoltatori, così. Radio Gaga. Esatto. E quindi parliamo di... Effettivamente ci sono delle belle canzoni sulla radio. Ce ne sono tantissime. Come tema la radio. Beh, è un tema che ispira, eh. Io devo dire che questa è nel mio cuore proprio... Non è originalissima, lo so che spesso si usa parlando di radio, però è veramente un capolavoro quasi inarrivabile, anzi, direi proprio inarrivabile. Enrico... in questi giorni tu sei stato a Roma al, come si chiamava questo World DMB Forum. Allora, DMB è una tecnologia Digital Mobile Broadcasting, insomma, non andiamo troppo. Comunque, il congresso internazionale mondiale della radio. C'erano cinesi, coreani, australiani, europei di tutti i generi. Cioè, c'erano anche dei modenesi. C'erano anche sì, dei milanesi, dei modenesi, insomma, c'erano parecchi italiani, insomma, direi che è un po' un riconoscimento all'Italia perché nonostante mille problemi che il nostro paese sta vivendo, stiamo facendo, direi, soprattutto le radio nazionali, le principali radio nazionali, tra cui Radio 24, un buono sviluppo della radio digitale in Italia. Ecco, Enrico, tu ne hai parlato in 2024, yes, ieri sera alle 22. Yes, 22. Però il podcast è sempre disponibile, quindi lo possono già scaricare. Abbonatevi al podcast. Al podcast di 2024. Però vorrei essere un po' pratica per i nostri ascoltatori del sabato pomeriggio. Magari stanno facendo shopping, devono comprare un regalo. Oppure stanno finendo di lavare i piatti, che non so. Ma... Beh, 15:36, secondo me hanno già finito di lavare i piatti, dai. Comunque, noi spesso facciamo anche lo spot su Radio 24 della Digital Radio. Sì. Ti chiedo velocemente cos'è, anche perché io voglio sapere se devo andare a comprarne una. Allora, prendiamo come esempio il digitale terrestre televisivo. Abbiamo subito questi 10 anni di passaggio da una tecnologia all'altra. Sta succedendo più o meno la stessa cosa. Allora, attenzione, non è che spegniamo l'FM. Stanno nascendo due canali, sono già nati per buona parte del territorio italiano due canali, uno che è il classico FM analogico. Questi nuovi canali sono canali digitali, quindi con una maggiore qualità del suono, ma direi la caratteristica principale è che mentre ci muoviamo in automobile, se abbiamo la digital radio, una radio digitale in automobile, ci possiamo dimenticare le interferenze, quelle quindi famose dell'FM. mi piace quando fa interferenze. Quindi, Enrico, per essere molto pratici, a casa non è necessaria se abbiamo una buona copertura, non allora, è indispensabile. Adesso tutti i broadcaster, cioè gli editori radiofonici, i broadcaster si stanno concentrando sulle autostrade, quindi sulle grandi dorsali di traffico in movimento. Quindi quella è la principale attenzione al momento. Poi vedremo gli sviluppi nei quindi prossimi mesi. A casa mesi, magari anni. Possiamo fare meno, anche se ho allora, visto degli oggettini casa, carinissimi. Nella mia casa di Milano io ascolto la Digital Radio sia nella mia casa di Milano sia nella mia casa vicino a Modena. Si sente benissimo anche in casa, nonostante abbia dei muri piuttosto spessi. Nella mia casa di Milano si sente malissimo l'FM, non solo di Radio 24, anche di altre radio, perché in città poi ci sono varie interferenze, altre radio, vari aggeggi che disturbano. Io sento benissimo in casa mia con una radio digitale, Digital Radio in casa. Però diciamo la cosa migliore e diciamo i vantaggi più grandi della Digital Radio si hanno quando ci muoviamo in automobile. Io consiglio tutti i nostri ascoltatori che quando insomma se dobbiamo acquistare una nuova auto, la nostra nuova auto deve avere la Digital Radio. Andate dal concessionario e dite: ok le ruote, ok il motore, beh, però diciamo, voglio avere la Digital Radio. Ci sono 120 modelli che la contemplano, solo 25 purtroppo ce l'hanno di serie, gli altri sono a pagamento, costa un centinaio, io l'ho pagata 200 euro, quella che ho sulla mia automobile, però non ho litigato molto perché la volevo, insomma, però io consiglierei di litigare col concessionario. Scrivetemi e mi ci metto anch'io in gioco, vengo dal concessionario e lo convinco a regalarvi la Digital Radio. Enrico Pagliarini cambia a la vita, cambia la vita, perché non c'è più interferenza e _ Pagliarini su Twitter a domicilio. Allora, io vengo. Beh, facciamo un servizio, consegna un Pagliarini a domicilio. Invece velocemente, perché poi un'altra cosa da chiederti, quelle di casa, da casa quanto costa? Allora, una cosa bella è che tutte le radio digitali sintonizzano anche l'FM, quindi se per caso ci sono anche modelli un po' più evoluti che si connettono addirittura ad internet, quindi uno può ascoltare direttamente dal sintonizzatore della radio il podcast, ad esempio. Allora andiamo dai 50 ai 200, ci sono delle radio bellissime, però diciamo con 50, 70, massimo 100 euro si compra un ottimo prodotto, anche molto bellino. Lo potete comprare online, verificate su digitalradio.it la copertura. Allora, noi apparteniamo ad un consorzio di radio assieme ad altre radio, RDS, ma anche altre radio nazionali, e copriamo oramai il 65% della popolazione. Se uno va da Torino fino a quasi Trieste, su Trieste stiamo lavorando, se uno parte dal Brennero e va fino a oltre Roma, quasi verso Napoli, sente perfettamente, senza mai un... Okay. Non è la vostra radio, Enrico Pagliarini. Senza nessun disturbo la Digital Radio, è meraviglioso. Poi abbiamo anche alcuni canali in più. Ecco. Un bel canale di jazz, io ascolto questo canale di jazz. A Pagliarini piace molto, quando non ascolta Radio 24 esatto, ascolta jazz. Ascolto jazz, io sono entusiasta, mi piace moltissimo. Enrico, bellissimo. Secondo argomento di oggi, WhatsApp, ne hanno parlato tutti questa settimana, perché cosa è successo? Che prima tu mandavi un messaggio a una spasimante, lei non ti rispondeva subito, però potevi dire, ma sarà presa, non l'ha ancora visto, non l'ha ancora letto. Vorrei sapere se ha letto o no. Allora, e adesso invece si può, ci sono dei sistemi alternativi per far sì che uno non sappia che l'ha letto, però insomma... Nel 99% dei casi. Cioè, mi hanno detto che basta vedere solo la preview e non aprire il messaggio. Però insomma, è complicato. Allora, diciamo che se io ti spedisco un messaggio con questo sistema, è un po' una specie di SMS. Quindi io ti mando un messaggio, tu mi rispondi, io ti rispondo, bla bla bla, avanti così. Però potrebbe succedere appunto che ci fermiamo a un certo punto e dico: ma perché non mi risponde? Avrà visto, non avrà visto, sei incastrato da qualche parte questo messaggio. Adesso arriva una notifica, cioè un piccolo segno che diventa blu. Che significa l'ha visto e non ti vuole rispondere. Esatto, mettiti ha visto il messaggio. Allora, è un po' come anche per gli SMS, cioè la notifica di avvenuta lettura, certo. O come per l'email, no? È la stessa cosa. Quindi diciamo che dal punto di vista tecnologico non è che sta grande novità, anche perché molte altre applicazioni concorrenti di WhatsApp ce l'avevano già da tempo, quindi era una cosa normale. WhatsApp non l'ha mai avuta. Ed effettivamente è un argomento che non pensavo, ma di cui si è parlato molto. Cioè, quindi tutti anche usano WhatsApp. Tutti usano WhatsApp, è molti. Diffusissimo. Ci sono, allora, 600 milioni nel mondo. Ah, ed però. È l'applicazione più di questo genere, più diffusa. Però pensa che ce ne sono. Io ne ho contate 42, 43. Ah, di tantissime. Sì, ce ne sono tantissime. Beh, allora, cito, posso? Siamo un po' di tempo. Allora, cito quelle più famose, quindi quella a cui noi siamo più affezionati, perché siamo un'azienda che è BlackBerry oriented, noi abbiamo il BBM. Io e Pagliarini in realtà ci mandiamo i BBM. Esatto. Poi FaceTime, Apple. Ah, quella la usa tanto mio nipote, perché mi manda... Sì. Facebook c'ha la chat di Facebook, certo. Google che ha la chat inserita in tutti i servizi, Hangout eccetera eccetera, e poi sempre per le più famose, Skype, è la più famosa, con Skype ad esempio si telefona anche, cosa che ad esempio con WhatsApp non si fa ancora, Snapchat, molto utilizzata dai ragazzini, che i messaggi scompaiono dopo poco. E non vogliamo sapere che cosa c'è in questi messaggi, esatto. Che scompaiono. Poi due applicazioni molto interessanti, Telegram e Viber. Se ne è parlato un po' di tempo fa, però sono due applicazioni piuttosto diffuse che vanno citate. Poi c'è il Messenger, ad esempio, di Yahoo. Yahoo ha una posta elettronica piuttosto diffusa e c'è il Messenger, quindi ci si possono scambiare messaggi anche con. Induna. Ah, ma tu l'ultima è sempre, c'ha sempre dei nomi carini. Allora, Induna non è una lingua strana, è sardo. No. Induna è l'applicazione Messenger e si può anche telefonare. Tra l'altro ci sono anche delle possibilità per telefonare gratuitamente a numeri americani, numeri cinesi. Insomma, è interessante ed è di Tiscali. Molto Induna, è scritto Indona con due. Domanda velocissima, anzi, yes. Domanda rapidissima e risposta velocissima. Come la scegliamo quella più adatta per noi? Allora, WhatsApp, è molto probabile che il nostro interlocutore potenziale abbia WhatsApp. Se riusciamo a metterci d'accordo, io andrei su delle alternative che magari possiamo vedere tra poco, molto sicure. Ah, perché ecco, qui c'è un problema di sicurezza, perché qualcuno potrebbe anche beccare i messaggi in giro. Ottimo, no? Argomento. Allora, visto che sei qua in studio, è il momento delle informazioni sul traffico, quindi se rimani con noi, rimaniamo su questo argomento, diamo la linea alle informazioni sulla viabilità, rapisco Enrico Pagliarini ancora per qualche istante. Traffico. Il sabato del villaggio. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Accendere la radio FM o DAB, visto che digitale, la radio digitale. C'è un ascoltatore che dice: ma se io ascolto con l'FM non perdo mai il segnale, invece con la digital radio potrei perderlo, perché effettivamente se non arriva il segnale. Allora, tutte le radio, tutte le autoradio hanno un sistema automatico che passano dall'una all'altra. Visto che non spegniamo l'FM almeno per parecchi anni, ne stanno discutendo, meglio, hanno già deciso di spegnere l'FM solo in Norvegia e in Svizzera. I nostri amici svizzeri sono molto bravi, hanno una copertura fantastica di radio digitale, quindi quando io vado in alcune zone dove effettivamente la digital radio non si prende bene, anche se ormai la copertura è molto ampia, cambia automaticamente in FM, quindi non perdo mai il segnale, anzi è una maggiore garanzia di avere una copertura completa. Applicazioni sicure. Ah, fantastico, applicazioni sicure, questo allora, è molto interessante. Alternative a WhatsApp. Ah, bene, bene. Ti ho fatto fare tutto uno studio, visto che hai un sacco di documenti davanti. Allora, se ti dico silent text, tu capisci già che capisco che è tutto blindato. Silent text, silent phone sono applicazioni molto sicure. Io in quel caso non mi preoccupo se devo dire cose particolarmente segrete. Poi Signal, scritto Signal, e Chat Secure, più chiaro di così, oppure CryptoCat. Vabbè, dai, i nomi già sono da 007. Sì, dai, poi ce lo twitti, così poi io lo retweet e poi i nostri ascoltatori che seguono o me chiocciola Marta Cagnola o te e _ Pagliarini e poi lo hashtaghiamo con ISDV, il sabato del villaggio, li trovano sicuramente. ISDV, sì, detto all'americana. Ci potremmo fare una canzone su ISDV. ISDV, questo quindi... Hai posto il problema della sicurezza di questi messaggi che vengono inviati. Che non sempre sono sicuri. Ad esempio sulla capacità di cifrare, quindi di usare crittografia, cosa che sta andando molto di moda dopo tutto quello che ci ha spifferato Snowden. Non tutte, anzi direi che quasi nessuna delle applicazioni più popolari può essere definita sicura. Potrei dire, secondo uno studio che è stato fatto questa settimana dalla Electronic Frontier Foundation, che è americana, che forse FaceTime di Apple e Telegram forse sono le più sicure tra le popolari, ma in generale non mi sentirei di dire che sono. Invece quindi le cose importanti, silent phone è sicura, sì. Le cose importanti, quindi ditevele di persona. Ah sì, che... questo in generale su, diciamo, su internet è le cose molto importanti, anche se fate business. Il problema è che magari su WhatsApp ci sono persone che si scambiano anche, non dico documentazione protetta, però anche visto che si possono scambiare anche le fotografie, certe cose non mandatele. Ecco come hanno fatto quelle famose celebrity. Perché poi magari ve le ritrovate da qualche parte. C'è un SMS al 349-238-6666, cosa significa la punta blu di WhatsApp, che tu hai mandato un messaggio e che quel messaggio è stato letto. Enrico, la spunta è una V piccolina, come quando andiamo a compilare un modulo e facciamo la spunta così. Una grigia è stato mandato, due grigie è stato mandato ed è arrivato, quando diventano blu è stato letto. Enrico, grazie per essere stato con noi, quindi l'appuntamento con 2024, che a qualche ascoltatore manca e ci mandano gli SMS, è comunque il venerdì sera alle 22, il podcast. Anche la domenica alle 13, la domenica alle 13, che è una novità. Bellissimo. Ma poi c'è il podcast. E poi c'è il podcast. Io sono, perché diciamo, va bella radio digitale, broadcast per i programmi in diretta che sono i più belli, però se uno se li perde c'è il podcast. Straordinario. No? Ciao. Un'ascoltatrice ci scrive che comunque lei sta ascoltando lavando i piatti. Grazie. Enrico. Adesso noi dobbiamo parlare di cinema. Sei un uomo istruito e sei anche un pilota esperto. È un ingegnere. Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo. Il nostro pianeta è sconvolto da drastici cambiamenti climatici che hanno devastato l'agricoltura terrestre. L'unico prodotto agricolo sopravvissuto alle intemperie è il grano turco. Così un gruppo di scienziati decide di intraprendere un viaggio spaziale attraverso un wormhole per trovare luoghi in cui la vita sia possibile. Ma è la trama di Interstellar da questo weekend al cinema. Era attesissimo, ovviamente ora è primo in classifica, ma com'è questo film? Lo chiediamo subito a Franco D'Assisti. Buon pomeriggio Franco. Allora, vale la pena andare a vedere Interstellar? Beh, valer la pena vale la pena, perché chiaramente è un film di Christopher Nolan, l'autore di Memento, di Batman, di Inception, insomma, come dire, è un regista che va seguito. Si è scatenata una sorta di guerra santa su Interstellar nella critica, chi lo giudica, per dirla alla Fantozzi, una boiata pazzesca, chi invece lo esalta come un capolavoro alla Kubrick. Forse la verità sta in mezzo, o quantomeno sta un po' di qua e un po' di là. C'è sicuramente una visionarietà, c'è sicuramente la voglia di raccontare una storia di ampio respiro, anche con significati alti, servendosi del mezzo della fantascienza, però c'è anche forse un'ambizione spropositata che schiaccia un pochino il film. In certi momenti Nolan non si capisce bene che cosa voglia raccontare e dove voglia andare. È un film che vorrebbe essere alto, ma strizza l'occhio anche un po' al pubblico del sabato sera. È un film assolutamente forse da famiglie con bambini non troppo piccoli, anche volendo, e sicuramente anche per giovani, però chiaramente con dei significati che potrebbero essere seguiti e potrebbero diventare una chiave di lettura ulteriore. Quindi insomma, un film da vedere, ti ricordo 3 ore meno 10, quindi anche avendo un po' di tempo a disposizione, senza gridare per forza al capolavoro. Franco, nella scorsa puntata del Sabato del Villaggio abbiamo parlato del grande successo del Giovane Favoloso di Mario Martone, il film su Leopardi. Insomma, noi del Sabato del Villaggio abbiamo scelto questo titolo così leopardiano, non potevamo non esserne contenti. Sta andando ancora molto bene questo film? Sta andando ancora molto bene, e soprattutto è successa una cosa nel frattempo, che ha superato la soglia psicologica dei 4 milioni di euro di incasso globale dalla sua uscita, che ormai è datata 3 settimane fa. Dopo 3 settimane il film è ancora in 250 sale, e noi di questo parleremo alla Rosa Purpurea fra poco con Mario Martone, perché è davvero ormai un fenomeno che tra l'altro sta anche abbastanza spopolando fra i giovani, fra i ragazzi delle ultime classi superiori o dell'inizio dell'università, insomma dei 18, 19, 20 anni, che riscoprono un Leopardi rock, un Leopardi alla Kurt Cobain, un uomo voglioso di vita ma pressato e oppresso da una fisicità che gliela impedisce. Insomma, di tutto questo parleremo con Martone, perché davvero va salutato un successo di questo tipo per un film di questo spessore. Franco, invece il filmone da non perdere nelle uscite di questo weekend, quello che insomma ci piace dire, poi ne parleremo con gli amici, ne parleremo a cena, ne parleremo lunedì quando torniamo al lavoro, cosa dobbiamo per forza vedere questo fine settimana? Ma guarda Marta, io ho amato molto già Venezia quando l'ho visto, Tre cuori di Benoît Jacquot, perché è un film assolutamente, candidamente, dichiaratamente Melò, ma non si ferma lì, è un film che va oltre, che ha uno dei momenti del cinema sentimentale più belli degli ultimi anni, secondo me. I primi 10-15 minuti di questo film sono straordinari, però è un film anche che ha dentro il concetto famoso ormai cinematograficamente delle sliding door, cioè delle vite che possono cambiare se una cosa succede o non succede. In questo caso non succede, saranno guai per tutti i protagonisti, che sono tra l'altro Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Benoît Paul Verde, straordinario nel ruolo del protagonista assoluto, perché è un film che vive l'amore al maschile. Quindi questo io lo consiglio vivamente alle coppie, veramente, di tutte le età, che vogliono andarsi a godere un bel film sentimentale come si faceva una volta. Per quanto riguarda invece i ragazzi, non so, ci sono film d'animazione, film da vedere in famiglia? Ma guarda, ecco, hai fatto bene a citare la famiglia, perché qui non è tanto e non solo per ragazzi di oggi o ragazzini di oggi, ma dato il personaggio, forse si porta dentro anche quelli che adesso hanno 40 anni e hanno i figli. Parliamo di Doraemon, il famoso gatto spaziale, come diceva la sua sigla, che fu un'animazione che in Italia ebbe il suo successo negli anni 80 e che torna in 3D, tra l'altro, con un vero e proprio film che racconta le gesta di questo simpatico gatto robot creato alla fine degli anni 60, che oggi appunto diverte più generazioni. Quindi se si vuole stare insieme in questo senso, ci saranno effetti nostalgia per i quarantenni, ma molto divertimento anche per i ragazzini. Allora Franco, l'appuntamento con te è alle 18 con La Rosa Purpurea, più tardi a Franco D'Assisti. Buona serata. Grazie Marta, a risentirci. Eccola qui la musica di Interstellar, questo record film blockbuster del weekend, ovviamente è primo in classifica. Intanto i vostri messaggi, ringrazio Dani World 76 che su Twitter fa i complimenti al duo Pagliarini e Cagnola, grazie mille. Enrico sarà con noi durante tutte le puntate del Sabato del Villaggio, il nostro hashtag ISDV. Il Sabato del Villaggio. Buongiorno, ci siamo ancora, il nuovo sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io, Marta Cagnola, vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Due strumenti velocissimi: il numero per gli sms 349 238 6666, e Twitter, il mio account è @MartaCagnola e l'hashtag è #ISDV, le iniziali di Il Sabato del Villaggio. Cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Beh, parleremo delle serie TV di cui non possiamo fare a meno. Questa volta parliamo di serie TV un po' piccanti, poi le nuove tendenze, le strategie anticrisi e uno studio sulle abitudini degli italiani che vi stupirà. Ne parleremo con Maria Luisa Pezzali. E poi libri che dominano le classifiche, si sfidano i big delle vendite, da Ken Follett ad Andrea Camilleri, ce ne parlerà Alessandra Tedesco. Ma prima parliamo di un personaggio di cui si stanno occupando tutti, ma proprio tutti. È un tale piacere vederti. Sapere che il lavoro ti va bene? No, molto bene, infatti. Il mio capo leggerà il mio libro quando sarà pronto. E tu a che punto sei? Oh, beh, ho finito 4 capitoli e adesso li sto rifinendo. Il progetto è arrivare a 9, ma sono memorie, quindi prima le devo vivere. Ted, non voglio rimandare il discorso a dopo cena. Capito. Anna, io e tua madre abbiamo parlato e secondo noi sarebbe il momento... Come posso dire? Beh, visto che il lavoro ti va bene e che pare tu sappia ciò che vuoi, forse sarebbe il momento di darti la spinta finale. Cos'è la spinta finale? Vogliamo interrompere il tuo mantenimento. Io l'avrei detto in un altro modo, Lorin, non come te. Avete sentito l'inizio della prima puntata di Girls, serie di HBO, in Italia su MTV, serie molto famosa soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Italia, ma in Italia soprattutto si parla della sua creatrice, che è anche autrice di un libro molto discusso, Non sono quel tipo di ragazza, questo è il titolo italiano. Lei è Lena Dunham e ne parliamo con una giornalista che ne ha scritto veramente, secondo me, nella maniera più efficace e più profonda ma anche più divertente tra tutte le firme italiane, firma del Foglio. Buongiorno a Annalena Benini. Buongiorno Annalena. Buongiorno, buongiorno Sabato del Villaggio. Ti stiamo raggiungendo lontano? Sì, sono a New York. Sono a New York, ma non per inseguire Lena Dunham, ma per portarci i miei figli. La prossima volta senza figli, però. Senza figli sulle orme di Lena. Io ho detto, effettivamente, cioè, in Italia tutti stanno parlando di Lena Dunham, anche per uno scandalo di cui ti chiederò tra poco qualcosa. In realtà se ne parla, ma non è che tutti la conoscano, cioè non tutti hanno visto Girl. Eppure è un fenomeno incredibile. Sì, infatti hai ragione, è una cosa abbastanza sorprendente, perché non in pochi in realtà hanno davvero visto Girls, però tutti conoscono Lena Dunham, tutti sanno che è la ragazza geniale, sfrontata, che sta in televisione tette al vento e che in questo libro Non sono quel tipo di ragazza racconta la vita quotidiana, il sesso, le chat, i lavori squinternati, l'angoscia e l'amicizia delle ragazze del nuovo millennio. Perché la conoscono? Perché ha colpito l'immaginario con un nuovo tipo di racconto della vita femminile. Non è più, ha fatto diventare Sex and the City un dinosauro. Lo hai scritto anche tu su Rivista Studio. Sì, l'hai scritto su Rivista Studio, il numero dell'autunno, il numero 21. Noi che guardavamo Sex and the City, che avevamo un immaginario tra l'altro di donne molto belle, e invece lei è tutt'altro che bella, esibisce una nudità fuori da ogni canone estetico, ci parla di una nuova generazione. Ci parla di una nuova generazione che si è staccata, diciamo, per parlare ancora di educazione sentimentale, da quell'idea poi rimodernizzata di orgoglio e pregiudizio, ed è diventata qualcosa di più rock, più imperfetto, più sguaiato anche. Noi in Girls vediamo Lina Dunham che si lancia nuda sopra qualche fidanzato, pseudo fidanzato molliccio con le lentiggini, in sessioni erotiche abbastanza anche fallimentari. Ci sono preservativi che penzolano dalle piante nei campus universitari. Diciamo che tutta la patina di bellezza e romanticismo, oppure appunto grandi vestiti, corpi meravigliosi, è stata, io credo, finalmente superata da qualcosa di più reale. Qualcosa di più reale, molto a volte spietato, perché lei anche nella sua autobiografia non ha peli sulla lingua, racconta tutto della sua infanzia e in particolare è stata molto criticata, anzi persino di più, da alcuni, in particolare un sito americano che l'ha accusata, per un passaggio di questo libro, di aver molestato la sorellina quando lei stessa era molto piccola. Lei si è difesa in tutti i modi su Twitter, e anche qui è singolare come poi questo sia stato ripreso ancora una volta dai giornali italiani. Tutti ne stanno parlando, è un caso veramente discusso in questo periodo negli Stati Uniti. Sì, è perché qualunque cosa faccia o dica Lina Dunham o scriva o mostri di sé diventa immediatamente appunto materia di discussione, di dibattito. Cioè, lei le danno la copertina di Vogue e la condannano perché ha fatto ritoccare le foto, cioè ha fatto ritoccare, le hanno ritoccato le foto come a tutti, e invece lei che porta avanti questo tipo di femminilità più reale non avrebbe dovuto. Racconta in questo memoir in modo davvero nudo tutto quello che la riguarda, che riguarda sé, la sua famiglia. Racconta anche di quando metteva in imbarazzo il padre alle inaugurazioni delle mostre d'arte, raccontando che lui quando era cattiva le infilava una forchetta nella vagina, che erano cose assolutamente inventate, e lei trasforma tutto questo in materia letteraria senza preoccuparsi delle conseguenze nella considerazione che gli altri avranno di lei. Sì, tra l'altro noi ci siamo chiesti con Cristian Goldoni, che mi aiuta nel confezionare questa trasmissione, se era il caso magari di leggere qualche passo del libro, ma astraendolo dal contesto, cioè queste immagini sono veramente sconcertanti e sconvolgenti. Sì. Lei ha un'immaginazione veramente oltre ogni immaginazione. Beh, lei racconta che già a 8 anni aveva imparato la parola stupro e la ripeteva in continuazione mentre prendeva il tè con delle vecchie zie. Ecco, abbiamo capito che si tratta di un personaggio molto particolare di cui tutti parlano per conoscerla. Beh, la serie televisiva è Girls, il libro è Non sono quel tipo di ragazza, che è uscito già da un po' per Sperling e Kupfer. È uscito il 30 settembre. Penso che ci sia ancora in circolazione il numero di studio con il pezzo di Annalena Benini che spiega benissimo chi è questa Lina Dunham, che davvero ci sconvolge, ma che è uno dei personaggi, forse il personaggio più curioso e più interessante. Ti dico un'ultima cosa, Annalena, perché è uscito, e tra poco lo twitto su People, che probabilmente la prossima stagione potrebbe trasferirsi nello Iowa, perché nel trailer, quindi la prossima volta forse non andiamo a New York a cercare Lina Dunham, ma andiamo nello Iowa. Non lo so, Annalena. ci tocca andare però, allora. No, però vabbè. Annalena, grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie ad Annalena, grazie Benini. Marta. Buona New York. Il sabato del villaggio. Eccoci qui, avremmo dovuto parlare per ore di Lena Dunham per spiegare questo fenomeno così, così complesso e così scandaloso eppure così interessante. Mi è piaciuto parlarne con Annalena Benini, che davvero ha scritto cose molto belle e molto intense su di lei. Ma ora abbiamo un altro spazio, abbiamo ancora un altro argomento, perché è arrivata la nostra Maria Luisa Pezzali. Però vi devo confessare un segreto: cosa abbiamo fatto durante la pausa del giornale radio, visto che abbiamo parlato di Interstellar con Franco D'Assisti, con Enrico Pagliarini che se n'è appena andato e con Gigi Donelli che stava per leggere il giornale radio, abbiamo prenotato i biglietti per andarlo a vedere in 70 mm perché Pagliarini dice che va visto così. Vabbè, insomma, abbiamo ascoltato anche noi i consigli di Franco D'Assisti. Adesso però, insomma, abbiamo parlato di questo personaggio del momento, abbiamo parlato di tecnologie, ora invece è il momento delle tendenze e questa volta in particolare iniziamo con i comportamenti degli italiani. Parliamo spesso di italiani tristi, demotivati, insoddisfatti a causa della crisi. Questa volta invece ci occupiamo di una ricerca destinata a stupirci. Abbiamo con noi per parlarne appunto la nostra esperta di consumi e di nuove tendenze, Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio, Maria Luisa. Buon pomeriggio, Marta. A te e agli ascoltatori, è una ricerca che va decisamente controcorrente rispetto a quello che si sente raccontare sulla crisi e sui consumi, sulla propensione degli italiani agli acquisti. Raccontare i consumi e le nuove tendenze, lo abbiamo detto anche sabato scorso, significa riflettere sulla percezione e sulla condivisione degli atteggiamenti che possono fare da sfondo alle dinamiche di acquisto. Da tempo veniamo descritti tutti noi consumatori, i cittadini, come demotivati, spaventati, sfiduciati, con il freno a mano tirato un po' su tutto. Ebbene, ora qualcuno ci dice che invece gli italiani, pur registrando la crisi, hanno una vita tutt'altro che rinunciataria. Ce lo facciamo raccontare proprio da chi l'ha fatta questa ricerca, Enrico Finzi, presidente di Astra Ricerche. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Allora, oltre il 66% di chi ha risposto alle vostre domande si è detto contento di quello che possiede, una percentuale quasi analoga pensa addirittura che le cose possano andare bene. E questo è il dato nuovo. Noi in effetti siamo stati un paese in grave crisi e in grave depressione, ma abbiamo i primi segnali di una fuoriuscita dal momento più cupo della nostra vita nazionale. E anche nei momenti di crisi noi abbiamo avuto una nostra peculiare capacità di arroccarci nel mondo delle piccole cose della vita e lì ricavare felicità, soddisfazione esistenziale. Questa è la ricerca, la conferma. Naturalmente rispetto agli anni d'oro si sono ridotte le aspettative, ma anche questo è un trucco esistenziale per riuscire a cavarsela senza troppa sofferenza. C'è qualcosa che mi ha stupito in questa ricerca. Noi diciamo sempre che gli italiani sono poco curiosi, leggono poco. Invece, da questa ricerca, il 73,5% degli intervistati legge regolarmente libri e giornali, risponde molto o abbastanza. Il 42% ascolta musica con grande piacere, molto. Il 37,9% abbastanza. Insomma, ascoltano musica, leggono libri, sono più curiosi, anzi sono anche sperimentatori di cose nuove. Vediamo, ci sono due fenomeni diversi. Il primo è che sicuramente nel nostro paese la lettura di libri è ancora insufficiente e nettamente più bassa rispetto ad altrove. Però se consideriamo anche i lettori saltuari, quelli che in gergo si chiamano lettori non forti, i dati non sono catastrofici e tra l'altro sono in netto miglioramento progressivo tra le donne, che come spesso capita nei consumi, anche in quelli culturali, sono diventati la vera locomotiva. Siamo noi maschietti il sesso debole e più deplorevole, per così dire. Se aggiungiamo poi la lettura di quotidiani e periodici, anche la lettura su internet, l'interesse per la musica è ampio, magari non adeguatamente colto e profondo per quello che riguarda la musica cosiddetta seria, ma insomma non possiamo continuamente piangerci addosso. Senza cadere nell'ottimismo beota, però dobbiamo cogliere alcuni elementi di positività che tra l'altro, e chiudo, gli stranieri ci riconoscono, siamo noi a non riconoscerci abbastanza e questo sta diventando un nostro problema nazionale. Un bel segnale, Marta, per il nostro sabato pomeriggio dedicato alla lettura, ai libri, alla musica, ai consumi. E anche alle donne, vorrei dire. Grazie ad Enrico Finzi per essere stato con noi. Grazie a voi gli ascoltatori per la pazienza. Dopo questa ventata di ottimismo andiamo però con i nostri consigli, come di consueto le nostre strategie anticrisi. Maria Luisa. Avere a casa i prodotti senza spendere un soldo, Marta. Più strategie anticrisi di così può interessare? Davvero qualcuno ci regala qua? Si dice sempre che nessuno ci regala nulla. Invece no, parliamo del sampling, questa è la definizione marketing, campioni omaggio, quella universale. Un metodo vecchio quanto il commercio, quello di far provare, far assaggiare un prodotto per stimolarne l'acquisto, come tutto quello che attraversa il mondo dei consumi in questo momento, anche il fenomeno dei campioni omaggio è soggetto alla rivoluzione digitale, che non significa solo trasferire sul web un meccanismo, comporta anche nuovi elementi da valutare nella relazione tra aziende e consumatori. In questo spazio vogliamo raccontare anche un po' il dietro le quinte di una promozione, di una nuova iniziativa per renderci tutti più consapevoli come consumatori. Marta, ci diamo questo obiettivo, lo condividiamo con gli ascoltatori. Sono d'accordo e credo che lo siano anche i nostri ascoltatori, che ricordo ci possono sempre scrivere SMS al 349-238-6666 e poi contattarci via Twitter, il mio account è @MartaCagnola. Anche la scorsa settimana ci hanno contattato molto sulle strategie anticrisi. Benissimo, noi lo facciamo di nuovo con la nostra esperta, la direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao, ciao Marta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora Cristina, parliamo di siti, ce ne sono molti che consentono di ricevere a casa dei prodotti di vario genere come campione omaggio, quindi senza spendere. Io ne ho selezionati 4 e sono, come dire, in alcuni casi proprio si capisce già dal nome a cosa servono. Uno è campioniomaggio.it, un altro è brandfan.it, scritto proprio brandfan.it, desiderimagazine.it e dimmicosacerchi.it. Sono tutti siti dove uno può andare, cercare, guardare e scoprire la possibilità di arricchire il proprio frigorifero, il proprio beauty con prodotti in lancio da provare o da assaggiare. Funzionano molto in ambito cosmetico, del resto Marta lo sappiamo, il regno dei campioni omaggio. Io ho sempre scelto la profumeria anche in base a quanti campioncini mi dava, non so se anche lo facevi anche tu. Assolutamente sì, ma ci sono anche gadget e prodotti alimentari di vario genere, insomma Cristina, è così? Sì, anche perché qui cambia un pochino rispetto al campione, bene o male sì, se si va in profumeria poi si fa un po' di shopping e poi la commessa ci mette dei campioncini più a scelta sua che a scelta nostra. Ecco, quello che cambia è che oggi su questi vari siti si può anche scegliere che tipo di campione noi vogliamo ricevere. Tutto questo in cambio di cosa, Cristina? Non è che le aziende d'un tratto sono diventate così benefattori dell'umanità, ovviamente, dei dati personali, che sono la grande merce di scambio sul web tra consumatori e marche in questo momento? Assolutamente sì, perché a questo punto, come dire, si apre anche in maniera più aperta e, se vogliamo, anche più onesta un colloquio col consumatore, per cui io cliente, se voglio ricevere un campione omaggio, magari è gradita, anzi sicuramente sarà gradito, uno, il rilascio dei miei dati, chi sono, cosa faccio, perché l'ho scelto, perché voglio riceverlo, e poi magari anche un giudizio dopo averlo provato. Mi sono un attimo distratta perché mi stavo segnando i siti che ha segnalato Cristina, perché adesso, come abbiamo fatto la scorsa puntata del sabato del villaggio, ve li twitto subito. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. Marta, in chiusura, da vera esperta di cinema, quale sei tu? Ti ho preparato un quiz, senti un po'. Ma do un'occhiata qui, guarda qui, $26,000 per una fottutissima cena. Ok, no, no, no, questo te lo posso spiegare, lo sai, abbiamo dei clienti, quelli della sì, Pfizer. Sì, Pfizer, esatto, bistecche dall'Argentina. E poi lo champagne, il vino, abbiamo comprato champagne, e poi tu hai ordinato quei contorni, diglielo che contorni hai ordinato. Ho ordinato dei contorni. Contorni? Potevamo... $26,000? Per i contorni? Ma che contorni erano? Guarivano il cancro? Sì, esatto, guarivano il cancro. Beh, potrei farti la battutaccia e dirti che era la cena di Matteo Renzi questa settimana. No, non lo era. No, direi che è The Wolf of Wall Street. Ci siamo. Esattamente, sì. Esattamente. Quanto è lontano il concetto di lusso oggi da questi standard, quando ha invece a che fare con la personalizzazione, con la declinazione del tutto soggettiva. È una tendenza, quella della cosiddetta customizzazione dei prodotti, così si diceva un tempo. Oggi va invece molto di moda parlare di tailor made, un'espressione mutuata dal gergo sartoriale, appunto, una tendenza su cui magari torniamo una delle prossime puntate, al di là e non solo, insomma, nella sua declinazione lusso. C'è tanto da raccontare. Declinazione lusso, bene, parliamo tanto di lusso, ma anche della possibilità, anche magari grazie alle nostre strategie anticrisi, di mettere via qualche soldino per spendere i soldi bene. Quindi permettetevi di ricordarvi che in edicola questa settimana c'è un nuovo numero di Autospend It del Sole 24 Ore, che Maria Luisa peraltro parla proprio anche del lusso concepito come prodotto su misura. Quindi benissimo, ci siamo allineati. È esattamente questa tendenza. Peraltro una buona notizia: questo mese Autospend It esce due volte, venerdì 7 e 21 novembre, che vuol dire che in momenti difficili, il fatto che una rivista esca due volte in un mese è comunque un buon segno. Un altro segnale di ottimismo che portiamo a casa oggi. Il nostro tempo è esaurito per questo blocco, facciamo una piccola pausa. Prima però ricordiamo domani alle 15 l'appuntamento con Essere e Avere. Essere e Avere. Ci ciao, ritroviamo. Marta. Ciao, un saluto Maria Luisa. Agli ascoltatori. Ci grazie. Ritroviamo tra poco. Il sabato del villaggio. Eccoci ancora insieme con me, Marta Cagnola, ma al di là del vetro ci sono Cristiana Goldoni che mi dà una mano a confezionare questa grossa trasmissione del sabato di Radio 24, poi c'è Roberto Scaltritti in regia. La seconda parte della seconda ora del nuovo sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, che è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Non ne abbiamo ancora parlato, vi ricordo che staremo insieme anche dalle 17 alle 18 con il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ci potete tenere compagnia con i messaggi SMS al 349-238-6666 e poi con Twitter l'hashtag è ISDV, come il sabato del villaggio. C'è il mio account di Twitter @MartaCagnola. Twitter mi è più comodo perché riesco anche a farvi delle segnalazioni. Ad esempio, poco fa vi ho twittato tutti i siti di cui vi ha parlato Cristina Lazzati. È un po' difficile farlo in altro modo, non so, che magari siete in macchina, non riuscite a prendere appunti proprio in quel momento. Beh, insomma, c'è sempre il podcast poi da recuperare. E poi, beh, ora invece no, vi twitterò questa cosa di cui vi parlavo prima, di Lina Dunham, che adesso va nell'Ohio. Però adesso è il momento, lo dicevamo, non l'abbiamo ancora fatto, di parlare di libri. E quindi per parlare di libri abbiamo con noi la nostra super esperta Alessandra Tedesco. Buon pomeriggio, Alessandra. Buon pomeriggio, con questa musica così epica. Mi viene da usare un tono di voce molto più importante. Ma di cosa ci parlerai con questa musica di sottofondo? Ti parlo del libro del momento, uno dei libri del momento, insomma, il libro straniero forse del momento. È un libro che è uscito da almeno un mese, ma che inevitabilmente ha subito conquistato la classifica dei libri più venduti. Indovina chi è? Libri più venduti, epico, un libro, uno di quelli che scrive. Vabbè, sta guardando i libri che ho portato in regia. No, dai, adesso. Allora, quindi, secondo me, se sono tante pagine, se c'è una cosa epica, si vede, è un bestseller, tomo. È Ken Follett. Infatti, è Ken Follett. Ken Follett. Sai che secondo me lo pagano a pagina. Perché? Ma guarda, se lo pagano a pagina, ti dico che questo, fammelo sfogliare, siamo a 1224 pagine. Ah, però. Quindi, come dire, se lo pagassero a pagina sarebbe un uomo ricco, ma già lo è, perché lo è. Quanti libri ha venduto nel mondo Ken Follett? Non ho idea, a quanto si misurano, in centinaia, milioni? Non a tonnellate, si misurano a milioni, insomma ne ha vendute più di 155 milioni di copie. Cioè. Alessandra, per essere chiari, in Italia un libro da quante copie è considerato un successo? Quante allora, bastano? Dipende, fino a 5 anni fa ce ne volevano almeno 50.000 di copie per essere un successo. A adesso che purtroppo si vende veramente molto poco, anche con 20.000 copie, diciamo, è un libro di un e buon quindi successo. Quindi lui, va bene, la sua carriera 155.000. Se anche avesse guadagnato un euro a copia, mettiamo così, una follia, anche se lui li guadagna in sterline naturalmente, avrebbe, giusto per fargli i conti in tasca, 155 milioni di euro. E bravo Ken Follett, ma parliamo di questo libro, anche perché voglio capire se vale la pena imbarcarsi in queste 1224 pagine. Allora, per i fan di Ken Follett la risposta è sì, ne vale assolutamente la pena. Il libro si intitola I giorni dell'eternità, Ken Follett, pubblicato in Italia come gli altri da Mondadori, ed è il terzo capitolo di una trilogia, la trilogia che viene chiamata in inglese The Century Trilogy, sarebbe la trilogia del Novecento, del secolo del Novecento, che era iniziata con La caduta dei giganti, poi L'inverno del mondo e ora I giorni dell'eternità. In questa trilogia sostanzialmente Ken Follett, attraverso dei personaggi, diciamo, normali, delle persone della vita quotidiana, parla dei fatti fondamentali della storia internazionale del Novecento. Non so, in quest'ultimo volume appunto della trilogia si va dagli anni 60, dalle lotte contro la discriminazione razziale in America, la crisi dei missili di Cuba, per arrivare alla caduta del muro di Berlino. Ma tutti questi fatti storici, questi pilastri del Novecento, e ho usato la parola pilastri non a caso, per quanto riguarda Ken Follett. Sì, li racconta appunto attraverso le persone normali. Perché dicevo pilastri? Perché quando si dice Ken Follett, il libro che viene in mente è naturalmente I pilastri della Terra. Lo so perché c'è stata anche una miniserie TV e io su questo sono un po' più preparata che sui libri. E decisamente, era carina? Ma sì, insomma, sono per gli amanti di Ken Follett, sempre questo per gli amanti di Ken Follett. Tra l'altro io pensavo a queste 1224 pagine, perfetto per le vacanze di Natale. Cioè potete prenderlo adesso, se siete in giro, in macchina, vi fermate, in libreria, prendete I giorni dell'eternità di Ken Follett. Ecco, però se non avete letto gli altri forse sarebbe meglio. Si possono leggere anche separatamente, però insomma sarebbe meglio leggere il primo volume, quindi sono 1200 più 1200 insomma ne avete da leggere da qui fino al 2015. O avete ferie da recuperare prima di Natale o aspettate Natale. Visto che abbiamo detto serie TV, miniserie TV tratte da libri, in Italia diciamo che il più importante di tutti per quanto riguarda il successo letterario legato al successo televisivo è solo uno. È Montalbano. Non possiamo non parlare di Montalbano. No, e infatti il libro italiano di cui si parla maggiormente in questa settimana è Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano. Indovinate un po' chi l'ha scritto? Naturalmente Andrea Camilleri. Oggi sono in vena di indovinelli, non so perché ho questo punto interrogativo costante in testa. Pubblicato come tutto i Montalbano di Camilleri da Sellerio. Allora, qual è la caratteristica? Inutile dirtelo, è arrivato subito, schizzato subito prima in classifica dei libri italiani più venduti. Allora, la caratteristica di questo libro è che in realtà si parla delle storie, delle vicende del giovane Montalbano, sempre a Vigate, in Sicilia, il commissario, ma sono racconti lunghi un po' intrecciati l'uno con l'altro, è un gioco quasi di scatole cinesi, ha costruito un romanzo nel romanzo e insomma lo dovete leggere per capire quello che sto dicendo, perché sono molto curiosa. Beh, insomma è il classico Montalbano, non devo dire che non delude mai, anche qui devo dire per i fan del genere, ma sembra una diminuzione, abbiamo detto Ken Follett, per chi segue no, invece sono libri assolutamente validi, sono i libri di cui si parla in questo momento, insomma se volete fare i fichi stasera a cena dite ma hai letto l'ultimo Montalbano? Sì, quello dove Montalbano è giovane, sono 8 racconti, non è un romanzo. È un po' tipo è uno strano intreccio, non ve lo posso spiegare, però sono dei racconti che però raccontate quello che vi ha detto Alessandro. Esattamente, poi un giorno ti porterò un libro meraviglioso che si chiama Come parlare di un libro senza averlo letto. Oh, fantastico! E si fanno delle figure meravigliose perché basta dare quei 2 o 3 particolari e si fa in società sempre una figura meravigliosa. Ma torniamo a Camilleri perché lo merita. Allora, come tutti gli scrittori che hanno un personaggio seriale, lui con Montalbano ha un rapporto di amore e di odio, diciamo così, e è ormai noto che lui ha scritto già l'ultimo romanzo, l'ultima puntata di Montalbano. L'ha scritta circa 8 anni fa, l'ha consegnata alla Sellerio. Si dice che venga tenuta in una cassaforte, in realtà è in un computer. Comunque, insomma, magari il computer nella cassaforte. Magari il computer nella cassaforte. E qualche tempo fa, quando avevo intervistato Camilleri anche su altri romanzi, insomma, gli avevo chiesto come mai ha scritto così in anticipo l'ultima puntata di Montalbano e così via. Sentite un po' che cosa ci ha detto. Siccome mi era venuta una buona idea su come farlo finire, l'ho scritto a 80 anni, temendo l'Alzheimer prossimo venturo, allora l'ho scritto allora e l'ho mandato a Elvira Sellerio, che se l'è chiuso in un cassetto dicendo: quando la serie Montalbano dovrà finire pubblichiamo questo libro, perché non c'è possibilità di ritorno al personaggio. E lei non ha deciso quando farlo finire? Ma certe volte decido di finirlo, poi mi pento. Si pente perché è troppo affezionato a Montalbano o per non deludere i lettori? Guardi, io non sono così affezionato a Montalbano come si crede, però Montalbano è un personaggio ricattatore. Pensi che ogni volta che esce un Montalbano ritornano in commercio e si rivendono, ed è un fenomeno piuttosto singolare, romanzi miei di 10-15 anni fa. Cioè Montalbano ha un effetto di apripista straordinario, mi consente di tenere in catalogo romanzi che altrimenti sarebbero spariti. Ogni volta che esce se ne rivendono 100 copie, 150 copie, 200 copie. È un personaggio ricattatorio, sa. Beh, è un personaggio però anche da traino, in qualche modo lei lo usa Montalbano? Beh sì, lo confesso sinceramente, lo uso, visto che anche lui si fa usare da me, perché sapesse com'è insistente. Su cosa insiste Montalbano? Ma Montalbano è come gli attori, vorrebbe essere il centro dell'universo, vorrebbe che io come scrittore mi dedicassi esclusivamente a lui. E per fortuna non lo fa, si dedica anche ad altro. Ma io fortunatamente riesco a tenerlo a distanza. Siamo proprio in Sicilia con Montalbano, come mi piace Montalbano. Ma perché rimaniamo in Sicilia? Rimaniamo in Sicilia perché mentre ti ho portato questo libro di Camilleri mi sono venute in mente le famose arancine di Montalbano. No? Ma quanto si parla di cibo di questa vada del villaggio. E guarda un po', ti ho portato anch'io un libro che parla di cibo. La scrittrice è Simonetta Agnello Orbi, ha scritto insomma romanzi tradizionali, pura fiction, ma da qualche tempo scrive anche libri che hanno a che fare col cibo. Quest'ultimo si intitola Il pranzo di Mosè, pubblicato da Giunti, e mi è venuto in mente perché fra le ricette che lei parla, le sue ricette della famiglia, insomma tradizionali, c'è la ricetta delle arancine o arancini. Adesso i siciliani, quelli a di Catania, ci diranno in un modo a seconda, a delle, seconda zone. Delle zone. E io ti ho portato la ricetta, così facciamo un po' anche gastronauta, mettiamola così. Sì. Un chilo di riso, un battuto di carote, sedano e cipolla, 1,5 litri di brodo vegetale per il risotto, 1 tazza da latte di ragù di carne mista, 1 tazza di piselli, 40 grammi di parmigiano, 1/2 tazza di pecorino a dadini, 1 uovo, olio per friggere, sale e pepe per la panatura, uova, farina e pan grattato. Se avete altre ricette scrivetecele via mail o via sms. Via sms 349-238-6666, ma anche col mio account di Twitter @MartaCagnola. Mi raccomando, adesso non cominciate a litigare su arancine o arancini. Hai qualcos'altro di cui parlarmi? Dobbiamo entrare in qualche altra atmosfera, Alessandra? Decisamente. Niente, sì, Pietro la Corte. Tumbala, tumbala, tumbala, laica, tumbala, tumbala, tumbala, la. Il nostro Pietro ci ha mandato questa canzone russa, direi, Alessandra. Sì, sì, una canzone russa ebraica e, come dire, mi è servita come là per parlarvi di questo libro che vi consiglio spassionatamente. Se avete in poi delle proteste, a chi lo consiglio? In particolare a chi vuole passare un weekend, una settimana, 10 giorni, adesso il tempo di lettura, vedetelo un po' voi, sono circa 400 pagine, vuole passare un po' di tempo con ironia, ma nello stesso tempo commuovendosi. Il titolo è Mi chiamavano piccolo fallimento, l'autore Gary Steingart, pubblicato in Italia da Guanda, e la sua storia, la sua autobiografia di ebreo russo che negli anni 80 emigrò negli Stati Uniti, perché io non sapevo che negli anni 80 fu permesso a molti russi ebrei, di andare appunto a vivere negli Stati Uniti. La sua famiglia passa anche per l'Italia, insomma ci sono una serie di traversie e lui fa la parte un po' dello sfigato, mettiamola così. Ed è anche carina la parte sull'Italia, in cui per esempio descrive gli italiani che sono gli unici che impazziscono per tutti gli oggetti dell'Unione Sovietica. Cioè loro li vendevano ai mercatini e facevano soldi così per poi fare la seconda tappa del viaggio e arrivare insomma dall'Italia poi in America. Curiosissimo, ultimo consiglio Alessandra. Più che un consiglio è una sorpresa, Marta. Hai un libro, lo svelo agli ascoltatori, nascosto dietro. Scusate, mi sono spostata al microfono. Cosa abbiamo? Guarda cosa ti ho portato, no, solo per te. L'oroscopo 2015 di Marco Pesatori, adesso io nella pausa mi leggo tutta la bilancia. No, guarda, io nell'oroscopo non ci credo, non me ne importa niente. Quando mi arrivano i libri e le segnalazioni sull'oroscopo, dico, ok, non mi interessa, quindi lo regalo a Marta Cagnola, guarda. Col cuore te lo grazie regalo. Grazie mille Alessandra, io lo prendo molto volentieri, io ci credo solo se dice cose belle ci credo ciecamente. Grazie Alessandra per essere stata con noi, l'appuntamento con il cacciatore di libri è? Per i mattinieri alle 6.45 del sabato e per quelli un po' più normali alle 22 del sabato sera. Grazie ad Alessandra Tedesco. Il sabato del villaggio. Eccoci con gli ultimi minuti del sabato del villaggio, edizione normale, perché l'ultima ora del sabato del villaggio, lo sapete, è quella di RadioTube insieme a Daniele Bellasio che sta per arrivare, spero che sia puntuale anche questo sabato. Voi comunque potete continuare a scriverci al 349-238-6666 i vostri messaggi SMS e c'è sempre il mio account di Twitter @MartaCagnola qui che vi aspetta, anche perché insomma stiamo un po' insieme in compagnia, ma mi serve anche per segnalarvi tutto quello di cui parliamo, perché è utile magari a volte scriverlo anche come appunto. Adesso però è il momento di parlare delle serie TV del momento. Occhio che siamo in argomento un po' hot, un po' piccantello. Io sono un uomo di scienza. Credo che spesso le donne confondano l'amore con l'attrazione fisica. Il sesso può benissimo esistere anche da solo. Ho intrapreso un nuovo tipo di ricerca che richiede una segretaria che non sia minimamente schizzinosa. Posso entrare un momento? Lo studio riguarda il sesso. Ci sono cose che si sospettano da sempre ma non sono mai state provate scientificamente. Molto emozionante, per le donne soprattutto. Lo studio del sesso in realtà è lo studio del principio di tutto, della vita stessa. Eccolo qua, questo era il trailer di Masters of Sex, che è una serie televisiva che va in onda su Sky Atlantic, però ho letto che in questi giorni esce anche il DVD della prima stagione, quindi per chi non fosse un abbonato Sky c'è un altro modo per vederla. Voglio parlare di serie TV un po' piccantelle, ce n'è qualcuna in circolazione e lo faccio con un caro amico, un bravissimo critico cinematografico e televisivo, ma è anche il tenutario di un fantastico blog, anche qui talvolta un po' piccantello e molto arcobaleno, che è Spettegolino. Gules.it, consigliato a un pubblico che sa quello che sta guardando. Buon pomeriggio, anzi quasi buonasera, Federico Boni. Buonasera a tutti, ciao Marta. Ti piace questo giro di parole per definire il tuo Spettegules? No, perché ci sono anche i ragazzi all'ascolto, anche i bambini, no? Diciamo che è un sito così un po' per intenditori. Per consenzienti. Per consenzienti, mi piace. Federico, cosa ne pensi di questa Masters of Sex? Guarda, io ne sono innamorato dallo scorso anno, perché l'ho seguita passo passo con i States, è finita la seconda stagione. È una serie, diciamo, particolare, voluta da Showtime, che ha in qualche modo portato in TV qualcosa che non si era mai visto, ovvero il sesso, però non fino a se stesso, ma il sesso come proprio condizione dell'uomo, cioè come elemento essenziale nella vita di tutti i giorni, ambientandolo poi negli anni 50, perché tutto nasce una storia vera, quindi dalla storia di William Masters, questo sessuologo che con la psicologa Virginia Johnson fece degli studi all'epoca all'avanguardia, perché in qualche modo andò a studiare per la prima volta l'interazione sessuale tra uomo donna, donna uomo, donna donna e uomo uomo, quindi abbattendo un po' i tabù, soprattutto nell'America di un tempo. E la ricostruzione portata avanti da Showtime è meravigliosa, perché va a intrecciare poi le storie tra i vari protagonisti, parlando di sesso senza mai mostrarlo in maniera eccessiva, però come dire, in qualche modo senza porsi nessun limite nell'affrontare determinati argomenti che vanno dalla masturbazione ai problemi erettili e quant'altro, quindi cioè, si parla veramente di tutto e lo fanno con estrema eleganza, soprattutto di scrittura. Io anche con un occhio quasi appunto scientifico. E poi c'è anche l'amore, ci sono i sentimenti. A proposito di amore e di sentimenti, c'è un'altra serie, io insomma, è appena iniziata, 5 novembre, e va in onda su Sky Atlantic a mezzanotte. Il che è tutto dire. Lo dico anch'io purtroppo perché a me è piaciuta molto. Si chiama Looking. Sesso un po', amore tantissimo, però perché va in onda mezzanotte? Perché ci si scandalizza ancora che l'amore sia ritratto nella comunità gay di San Francisco? Questa è la domanda chiave, perché in realtà è una, secondo me, la migliore serie sul mondo gay che sia mai stata creata. Era partita lentamente lo scorso anno su HBO con ascolti bassi, poi è cresciuta e ha trovato conferma con la seconda stagione. Il perché Sky non abbia avuto coraggio nel mandarla semplicemente in seconda strada, quindi dalle 10:30 oppure dalle 11, non si capisce, anche perché di sesso si parla e sesso si vede, ma non in maniera così clamorosa. Forse probabilmente si vedeva più sesso con Sex and the City e si parla del fine anni 90, quindi cioè, ben 20 anni fa. Però no, serie assolutamente consigliabile, perché semplicemente racconta il mondo omosessuale come non l'aveva mai visto nessuno in televisione, quindi credibile e veritiero, con tutti i limiti e pregi del caso, perché è un universo che, rappresentato dai vari colori che poi in qualche modo dipingono l'universo omosessuale, quindi tre protagonisti normalissimi, un ragazzo che realizza videogiochi, un altro che fa il cameriere e sogna di diventare un ristoratore, poi abbiamo un artista. E storie che si intrecciano, quindi amore, litigi, tutto molto normale, forse anche troppo normale per i critici, per chi non l'ha amato. Io invece ho apprezzato proprio questo, cioè questo lato diverso del mondo gay che finalmente viene mostrato, perché poi non è che si parla di, non lo so, mostri a tette che fanno chissà che cosa durante. Sì, però posso dirti una cosa, cioè se si facevano paranoie quelle di Sex and the City, qua si fanno veramente ogni volta dei film, ma ragazzi, mamma mia, ma ogni volta è un dramma ogni volta, non sono mai contenti sti ragazzi però, Federico, non lo so. Ma d'altronde non c'è differenza. Mamma mia. Allora, abbiamo parlato di due serie di Sky Atlantic, però siccome noi siamo democratici sotto tutti i punti di vista, anche siamo democratici sulle piattaforme, c'è qualcosa che ci consigli su Mediaset, Federico? Beh, su Mediaset direi che è imperdibile Orange is the New Black, anche qui seconda stagione conclusa, è stata una delle sorprese di Netflix degli ultimi anni insieme ad House of Cards. Per me è il Sex and the City del nuovo millennio, cioè rinchiusi in un carcere, perché ovviamente le protagoniste sono appunto delle carcerate, un carcere femminile tra le altre cose, tratto anche questo da una storia vera. Ma è una serie che spiazza, perché intanto è estremamente divertente, molto originale, e poi riesce anche in questo caso, puntata dopo puntata, a raccontare storie che riguardano queste donne, tutte diverse tra di loro, eppure con un passato più delle volte ovviamente complicato e criminale, riuscendo anche qui a parlare di sesso, perché anche qui ovviamente il sesso c'è, è presente, ed è un sesso di tipo ovviamente lesbo più delle volte, perché appunto si tratta di un carcere femminile, ed è una serie che piano piano è diventata di culto, e non solo nel mondo LGBTQ che lo attendeva, perché di serie con donne se ne vedevano poche ultimamente, dai tempi di Elwood probabilmente non c'era nulla di simile. A me è piaciuta tanto Orange is the New Black. Mi sono piaciute tutte quelle di cui stiamo parlando. Abbiamo ancora un minuto. Mi sa che non ti posso chiedere serie spintarelle sulle reti generaliste, ma almeno qualcosa, non so, che ti piace sulle reti generaliste, Federico? Ma se rimaniamo in Rai, Occhio d'Extant, che è una produzione di Spielberg, che è partito benissimo, uno sciafare con Alberi, che però a mio avviso poi è calato con il tempo, c'è Gotham su Italia 1 che sta funzionando, e poi su Rai 4, da non perdere, non solo Il Trono di Spade, che ormai è diventato di culto, ma Vikings, che è una produzione History Channel, che secondo me è notevolissima, perché è appunto incentrata sul mondo dei vichinghi, con Travis Fimmel, che è un ex modello diventato attore, e anche qui sessualmente molto esplicita, lo dico in maniera chiara, e anche molto violenta, perché se parli di vichinghi non puoi che non parlare anche di sangue e sesso. Stavo dicendo sangue arena, no, non c'entra niente. Federico, che bello, abbiamo parlato di cose un po' piccantine sulla serie TV, sono molto molto contenta perché ci vuole un po' anche di quell'ingrediente lì. Federico, io segnalo ancora il tuo blog, che è spettegules.it, ormai è definito il blog per consenzienti e a me piace da morire questa definizione. Comunque no, a parte gli scherzi, insomma, io lo uso tantissimo come fonte proprio per gli spettacoli, per le serie TV, perché sei molto attento soprattutto a quello che sta per arrivare, sei molto curioso anche sulle novità americane. Grazie Federico per essere stato con noi. Grazie a te Marta e buon pomeriggio. Grazie Federico, noi abbiamo preso nota di un po' di serie così un po' piccantelle, ma il sabato del villaggio non finisce qui, perché adesso c'è il GR24, vedo già Gigi Donelli che entra in studio. Noi ci ritroviamo tra poco perché siamo pronti per cambiare il vestito, perché tra poco è il momento di RadioTube, tra poco.